Buonasera e benvenuti alla quarta puntata di Ciò delle Storie, un podcast settimanale di attualità, cultura e un sacco di Nicola Nudo. Bentornati. È un po' freddino, però se vuoi parto. Ma intanto partiamo con la sigla, dai. Ma infatti vi va di lusso, direi. C'ho delle storie tese. C'ho delle sbarbe a mano? No, c'ho delle storie. Fatti questo slego. 1, 2, 6, 9! Insomma, benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata. Di cosa parleremo oggi, Nicola? Introducici un po' la parola che sarebbe il concetto centrale di tutta questa puntata. Oggi diciamo tutta la puntata ruoterà attorno un po' al consumo, al consumismo, alla settimana del Black Friday, quindi parleremo di questo, no? Di come tutto questo è nato, ha avuto origine, di come si è sviluppato, cioè se è una cosa che si è sviluppata un po' da solo, se comunque è stata un po' cavalcata, ecco, da qualcuno o da qualcosa. E chissà com'è andato, chissà come si com'è sviluppa andata. questo consumismo, chissà come si manifesta, no? Il consumo poi dipende anche di cosa, perché il consumo può essere anche cioè può essere di beni, ma può essere anche un'industria culturale, quindi andremo a parlare anche di come il consumismo è entrato nelle maglie della cultura e ha cominciato a creare anche dei prodotti culturali. Andremo in Corea del Sud per questo. Parleremo anche un po' di quello che è un prodotto che ancora conosciamo poco, ma che fra un po' ci inonderà tutti e tutte. Forse ci ha già inondato e non ce ne siamo nemmeno resi conto. Ma come si consuma questa cultura alla fine? Come si fa? Cioè, si mangia con la forchetta o col cucchiaio? Ah, non lo so, Io io non ho sono ancora nudo. capito. Allora siamo a Ma posto. dipende da dove vieni, magari anche con le bacchette o chissà cosa, quindi è un argomento talmente ampio questo che sicuramente Tanti dovremmo modi. essere parziali in quello che affronteremo, ma allo stesso tempo, insomma, nessuno qui è un esperto, ma ci divertiamo appunto a raccontarci quello di cui leggiamo e ci interessiamo durante la settimana. Sì. Sì, perché non solo siamo esperti, ma quando un esperto ci becca per strada, di solito cerca di prenderci ammazzate. E fa Esatto. bene, perché Ottimo segno. È già buono che ora non ci possano sputare. capito, No, perché era un abbiamo chiuso in hater, casa, era un ci hater. approfittiamo e parliamo di Lacan. Ta, Giusto. becchiaglielo. Tac. Guardiamo un po' con nomi francesi, perché anch'io parlerò di Le Bon, quindi vediamo un po'. Faremo Quindi un bel parliamo di viaggetto. Lacan, parliamo di Le Bon, Bon. parliamo di consumismo, parliamo di K-pop e della Corea del Sud, parliamo dell'industria culturale e parliamo Della del microfono storia, nuovo di Nick che spacca. e non solo di Nick, eh Ottimo sì, bene, ottimo acquisto. Potevi Lorenzo aspettare il Black Bonello. Friday, No, giusto invece averlo No. boicottato così, bravo Nick. Il Black Friday Meglio così, calendario. infatti. Bonduru. Va bene, dai, cominciamo la Bellissimo. puntata davvero. Ma sì, dai. Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, to bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't no high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Rieccoci. Rieccoci qua. Eccoci qua, eccoci qua. In diretta dallo ragazzi, studio. Oh yes, prima di iniziare a divertirci, di fare bischeri, come si dice, no? Una parola sulla giornata contro la violenza sulle donne. Mi sembra dovuta, perché comunque questo è un gioco, però ogni tanto è giusto fare seri. Ti abbracciamo tutte. Sì, perché era ieri o ieri l'altro? Eh sì, il 25. Ieri l'altro era la giornata contro la violenza sulle donne. Esatto, sì. Esatto. E, insomma, ci sono state tante campagne, hanno parlato persone di una certa influenza, ma anche, insomma, campagne lanciate da ARCI e altre associazioni, enti, organismi. Insomma, era giusto fare anche la Ferragni perché... addirittura. Sì, che comunque si è schierata, si era già schierata in questi giorni contro quel caso di Porn Revenge su Maestra. E tra l'altro insomma... è illegale, quindi cioè... Esatto, ha subito un torto, e come, se vogliamo proprio dirla tutta. Altro che... dai, quindi veramente un grandissimo, grandissimo abbraccio a tutte le donne che ci ascoltano, siete creature meravigliose, in quanto uomo, almeno io ragazzi, non so voi, ma penso sarete d'accordo, mi vergogno di quei vigliacchi che osano insomma fare violenza su di voi, e niente, la massima solidarietà, ed è una vergogna che siamo ancora qui a parlarne nel 2020. Assolutamente. Bravo Gil, bravo Gil. Ci sta, dai. Basta, ho finito, il vecchio sì. Ha parlato. Bella. Grande, no, hai fatto benissimo. E quindi si parla di consumismo e desiderio della struttura dell'io. Vediamo, partiamo da Lacan. Jacques Lacan, chi era? Jacques Lacan era un filosofo e psicanalista francese che ha vissuto a Parigi specialmente a ridosso degli anni 60 e 70, il momento in cui era più attivo. Lacan che cosa ha fatto fondamentalmente? Lacan ha preso Freud e la sua teoria psicanalitica e l'ha applicata a praticamente tutti i campi del sapere. Per usare una metafora, Lacan è stato un po' il prisma, no? Quell'oggetto di vetro dove filtrava la luce di Freud e si scomponeva in tutto lo spettro possibile. Infatti ha applicato la psicanalisi al mondo della filosofia, alla biologia, addirittura alla geometria, alla linguistica, insomma, probabilmente anche molto più di così, ma adesso non voglio stare qui a elencare tutto quanto, sarebbe anche noioso. L'importante è che Lacan, ecco, era uno che veramente ha preso Freud e l'ha applicato dove gli pareva. Lacan è famoso, oltre che per aver applicato Freud e per essere stato uno dei padri della psicanalisi moderna, per un'altra cosa, ovvero perché è difficilissimo da leggere. Non si capisce niente, ragazzi. Te leggi Lacan e non capisci nulla. Leggi i riassunti su Lacan e non capisci nulla, niente. A meno che non ci spendi, o ci spendi mesi, mesi e mesi, e poi cosa succede? Che tu vuoi spiegare Lacan a qualcuno, ma non puoi più spiegarglielo perché non ti capiscono più. E quindi... perché sto problema? Proprio Lacan, perché sto problema, no? Perché, come mi diceva una mia amica, Lila, che è qua accanto a noi, il linguaggio che Lacan adotta è un linguaggio che vuole descrivere l'inconscio e quindi si adatta all'inconscio, è isomorfo in questo senso, nel senso che assume la stessa forma di quello che vorrebbe descrivere. Ed è per questo che è così, sembra così poco razionale, così poco accademico, no? Quando lo si legge. Beh, diciamo che come si parla di Lacan e consumismo? Ecco, prima di tutto ci chiediamo una cosa. Perché vogliamo quello che vogliamo? No? Quando vogliamo qualcosa, che cosa entra in gioco di forze all'interno della persona, no? Beh, se vogliamo qualcosa è per via del desiderio. Il desiderio che già aveva descritto Freud, dicendo che il desiderio è necessario alla soggettività, è necessario al soggetto per costruirsi. Perché? Perché il soggetto desidera costantemente cose, è proprio una delle cose principali che fa tutto il tempo. Lo faccio io, lo fa Gianluca, lo fa Jill, lo fa Nick, lo facciamo tutti quanti. Io per esempio oggi mi sono andato a comprare gli Estate, ma dopo parliamo anche di quello. Per entrare nel mood della puntata. Il punto è che ci sono cose che non riesci a trovare dentro di te, no? E le cerchi fuori, cominci a cercarle fuori. È proprio per questo che il desiderio è sempre rivolto verso l'esterno. È rivolto verso l'esterno, ma verso che cosa? Verso delle cose che tu ti immagini che ti arricchiscano. Ma non solo che ti arricchiscano materialmente, ma proprio spiritualmente, in un certo senso. Nel senso che il desiderio è rivolto a cose che noi pensiamo che ci renderanno più noi stessi di quanto lo siamo oggi. Cioè, io sarei più me stesso se mi ricomprassi la felpa che mi hanno rubato, quella nera da skate che avevo, e adesso sento come una mancanza. Quindi, in un certo senso, il desiderio è come la carota sul bastone che fa andare avanti il ciuo, no? È questa cosa inesauribile di volere cose che si sostituiscono sempre in una ricerca disperata di se stessi che però sembra non esaudirsi mai. Infatti per Lacan il desiderio è come il desiderio è sempre rivolto verso gli oggetti, ma non è questo o quell'oggetto essere il desiderio. Il desiderio è l'oggetto multiforme che continua a cambiare. Quella cosa che prima vuoi l'estate, dopo vuoi comprarti la felpa, poi stasera magari vuoi vederti un film su Netflix. Il desiderio è proprio quell'oggetto che sta dentro di te e che continua a cambiare forma e che ti continui a inseguire. Che se ho capito bene lui chiama l'oggetto piccolo A, ma questo lo dico piano. Comunque, e non troverai chi ti smentisce. Oh, meno male, perlomeno no, nessuno smentisce, nessuno conferma. Un momento conferma. Oh, bellissimo, bellissimo. Guarda, una cosa che penso di aver capito. Allora, quindi se c'è poco, cioè io sono al secondo anno di una scuola di specializzazione per capirlo e ancora non credo di averlo afferrato, ma va bene così. È il movimento quello che conta, non è la meta. È il processo stesso. Infatti, ecco, forse la difficoltà di capire Lacan è Lacan stesso. Cioè, non se ne può fare a meno, no? E infatti lì, vabbè, c'entra tutto un altro discorso che magari facciamo più avanti. Comunque, insomma, chi è questo io che desidera per Lacan, no? Ora, vorrei parlarvi di Lacan, ma forse è meglio se vi parlo di gatti. Perché io ho un bel gattino a casa mia e tutte le mattine quando mi sveglio coccolo il mio gattino e gli dico che è il gattino più bello del mondo. Sì, tu sei il gattino più bello del mondo. E questo gattino però, Tao si chiama, è troppo intelligente, cioè non ci crede. Cioè lui non se ne convincerà mai di sta cosa, non c'è verso di convincerlo. E quindi E quindi perché i gatti sono più apprezzati? Perché i gatti sono più apprezzati degli esseri umani su YouTube, perlomeno, no? Sull'internet, perché fanno più like? Forse proprio per questa cosa qua, perché loro non soffrono quella fase invece che noi attraversiamo quando siamo bambini, no? In cui i nostri genitori ci restituiscono un'immagine di noi estremamente idealizzata, che si arricchisce, no? Diventa una stima, un amore di sé infinito, quasi narcisistico, no? Ora non volevo usare questa parola. Questa cosa i gatti non la fanno, non esiste, non c'è verso che lo facciano. Però per Lacan, questa cosiddetta fase dello specchio, questa fase di idealizzazione, è il primo passo verso la nevrosi, verso la nascita quindi dell'inconscio e l'incoerenza che c'è tra se stessi e l'immagine che vediamo nello specchio, cioè l'incoerenza che c'è tra la complessità che abbiamo dentro e questa immagine invece semplificata di noi e idealizzata che vediamo nello specchio o che riceviamo dai nostri genitori. A questo punto, questo sarebbe proprio il concetto di altro per Lacan, sarebbe un'immagine che prende il possesso di me, che mi allontana da me stesso, no? In cui io mi identifico e mi fa perdere invece quel me stesso reale, no? E qua mi viene in mente una poesia di Rimbaud che dice che io è un altro, no? La famosa poesia. Perché per Lacan non si può essere veramente se stessi, cioè non esiste l'essere se stessi. Perché come si costruisce l'io per Lacan? Per Lacan l'io è tipo una specie di cipolla che aggiunge strati su strati su strati, una sopra l'altra, e questi strati possono essere identificazioni progressive che abbiamo avuto, no? Per esempio, magari a un certo punto io mi identificato con Goku di Dragon Ball, prima quando ero più piccolo mi identificavo con Timon di Timone e Pumba, ora magari, non lo so. Interessante, ci dica. Al centro della cipolla, cosa ci sta? Tolti tutti gli strati, tutte le identificazioni, tutte le cose che pensiamo essere io, cosa c'è nel mezzo? Secondo Lacan, un bel di niente. Esatto. Anzi, se posso introdurmi, sì? È proprio una mancanza quello che c'è là dentro. Ed è proprio la mancanza che muove a un'esigenza di saturazione. Quindi cosa vado a cercare, no? Cosa penso che mi completi? Quindi c'è la presenza di un'assenza, no? Al centro dell'io. Sì. Cioè, c'è un vuoto, ma questo vuoto io lo sento e questa cosa che me lo fa sentire è la presenza, sarebbe l'io, no? Vabbè, bellissimo. Quindi, insomma, per Lacan non si può mai veramente essere se stessi. E quindi ci identifichiamo con altre... Certo. Se posso aggiungere una cosa, ma non so se vado fuori tema, quindi magari ragazzi se mi dilungo fatemi dei gesti di modo che io possa comprenderlo. Il francese in realtà facilita la comprensione di quello che hai detto tu, perché in francese ci sono due modi per dire io. Uno è l'io in posizione di soggetto, che è il je, e un altro è l'io in posizione di oggetto, che è il moi. Quando si parla di desiderio, in psicanalisi si parla proprio del desiderio del soggetto dell'inconscio, quindi diciamo di quel je, no? E quel gen non esiste se non barrato, se non mancante, perché ciò che va a creare l'inconscio fondamentalmente è la parola. Ed è la parola che non si comprende e quindi si rimuove. Proprio a causa, diciamo, di questa originaria rimozione, ciò che c'è al centro di quella cipolla è una mancanza. E quindi io andrò cercandola incessantemente per tutta la vita. Per questo si parla, sì, di indistruttibilità. Esatto. È proprio al centro dell'io, quindi, che sta questo desiderio. E quindi desideriamo, ma si possono desiderare tante cose. Si può desiderare una relazione, si può desiderare di avere una certa vita entro un anno, entro 5 anni, si possono desiderare i beni di consumo. E quindi perché desideriamo proprio questi beni di consumo ultimamente, no? Beh, qua entra in gioco quello che si chiama feticismo delle merci, che molti pensano che sia di Marx. In realtà Marx questa parola non l'ha usata. È una roba che è uscita fuori nel Novecento da Lukács, che si scrive Lukács, non lo so bene con quali consonanti, ma tante consonanti. Insomma, praticamente, secondo lui, il valore d'uso della merce non sta solo quando si usa la merce, no? Quindi il valore di uso io non lo non ce l'ho soltanto quando utilizzo un determinato tipo di bene, tipo una maglietta, no? Ma anche quando la merce viene celebrata. Ed è il motivo per cui una t-shirt bianca non vale quanto la t-shirt di Messi, magari autografata. Non perché il valore d'uso sia differente, no? Mi copre, non si rompe, siamo a posto. Si lava bene, vai, siamo a posto, no? C'è un ulteriore componente, che è questo di celebrazione della merce, no? E questo fa venire in mente un racconto di Giovanni Verga, La roba, no? Che parla di accumulo, cioè questa persona che continua a accumulare, accumulare cose, perché? Perché l'accumulo mi rende qualcosa di più, rende me come soggetto qualcosa di più di prima, no? Mi sento meglio perché ho di più, non la uso questa roba, ma intanto ce l'ho, e questa è la cosa importante. E è così che questo desiderio di merce diventa feticismo, perché alla fine se non ti serve niente, cosa la tieni a fare, no? Per celebrarla. Quindi, se produrre una maglietta di Messi costa molto meno che comprarla, se le carte di Magic stampate male, non so se le avete presente, le carte di Magic stampate male, ma una carta di Magic può costare anche 5.000 euro, quelle stampate male arrivano a 10.000, 15.000 euro. Per qual è il valore d'uso di una carta stampata male? È la rarità, è il feticismo. Lì entra in gioco proprio il feticismo della merce al suo massimo. Penso anche al mattone della Supreme. La conoscete la Supreme? No. Sappiamo meglio per voi. Vabbè, fanno cappellini, fanno felpe. Esatto. È una ditta di moda che fa marketing iperaggressivo. Questi qua hanno fatto uscire un mattone e il mattone costa $190, il mattone della Supreme. Allora io per curiosità sono andato a vedere quanto costa un mattone, no? Costa 50 centesimi un mattone. Lo trovi anche a meno, volendo. Lo trovi anche e a meno, se... Umbe. Cioè, non ci devi se ne prendi lo fai anche con la a pancalate, infatti. E quindi ma sta cosa qua, no? Sarà venuta fuori, perché la gente compra i mattoni della Supreme, no? Perché li compriamo? Perché mi sono andato a comprare l'estate oggi e non mi sono fatto il tè in casa come tutte le persone normali? Beh, è vero quindi che la società attraverso la pubblicità ci spinge sempre a consumare di più? E qua entra in gioco Zizek, e entra in gioco una domanda. Cos'è che ci rende veramente desiderabile un oggetto, no? Secondo Zizek e secondo Lacan, noi consumiamo le merci non tanto per il valore d'uso di quella merce, ma per un qualcosa in più che c'è. Per ora chiamiamolo qualcosa in più. Un prodotto non è mai un semplice oggetto che te utilizzi, ma porta con sé, normalmente, sempre delle sottigliezze ideologiche o metafisiche. Lui fa per esempio l'esempio del caffè di Starbucks. Il cappuccino di Starbucks costa 4 euro, ora vabbè, a parte l'Italia, no? Ma fuori dall'Italia. Il cappuccino di Starbucks costa comunque mediamente di più degli altri cappuccini, solo che il cappuccino di Starbucks è fatto con caffè sostenibile, una parte dei proventi vengono donati. Questo lo rende un oggetto super interessante per Zizek, perché da una parte tu stai comprando il valore d'uso del cappuccino, che è quello di berlo e magari darti un po' di scaldarti un po', energizzarti un po'. Dall'altra tu stai comprando anche il prezzo che ti serve per riparare all'atto distruttivo che stai facendo comprandolo. Ecco il portato ideologico che il cappuccino di Starbucks porta con sé. Tu non compri soltanto il cappuccino per il suo valore d'uso, ma tu compri quel cappuccino perché così stai anche già ripagando il debito che, fra virgolette, fai con madre natura. E quindi bere il cappuccino di Starbucks ti dà una forma di godimento che non arriva solo dal cappuccino in sé, ma anche da questo portato ideologico che ha con sé. Quindi ogni oggetto, per Zizek, riflette sempre una trascendenza invisibile, che è appunto questo qualcosa in più, questo portato ideologico, questo portato metafisico. La pubblicità della Coca-Cola, per esempio, che sarebbe Enjoy, no? Se non sbaglio. La pubblicità Enjoy. Della Coca-Cola, ecco, si riferisce proprio a questa qualità assente invisibile. Questa qualità assente invisibile metafisica sarebbe la causa del desiderio. In questa cosa Zizek riprende Lacan, no? La causa del desiderio, appunto. che è quel misterioso qualcosa in più, quel qualcosa di indescrivibile, che sarebbe l'oggetto che provoca il mio desiderio, quell'oggetto che sta dentro di noi, multiforme, che continua a cambiare e che ci fa volere sempre cose nuove. Ma non c'è solo questo, perché nella società di oggi sembrerebbe che siamo quasi... C'è un divieto di annoiarsi. Noi bisogna godere per forza. Hai finito di guardare Netflix? Apri Pornhub, non lo so, apri qualcos'altro. Hai finito di comprare su Amazon? Vai fuori, magari, e fatti un caffè. Forse è già buono se apri Pornhub, secondo me. È già qualcosa, no? L'età che hai. Guarda, è un dramma per me, anche da genitore ti dico, è un dramma. Io li voglio far annoiare perché ho la paura tremenda che se non si annoiano veramente gli manca qualcosa, l'esperienza, capito? È vero, se non ti annoi manca qualcosa, e questa è proprio la mia conclusione, infatti ora ci arrivo. Per continuare, no, un desiderio non è mai il semplice desiderio di una cosa precisa, ma è anche il desiderio del desiderio stesso, appunto il nocciolo del desiderio, questo oggetto dentro di noi che continua a cambiare forma. È il desiderio di continuare a desiderare. Cioè non è un caso che la Coca-Cola venda così tanto, tu compri la Coca-Cola per dissetarti, ci sono 40 grammi di zuccheri a bicchiere, ti viene una sete della Madonna e devi continuare a bere Coca-Cola dopo. Cioè tu la bevi per dissetarti eppure ti dà più sete, tu fumi una sigaretta per calmarti eppure dopo vuoi più sigarette. Il desiderio è sempre il desiderio di continuare a desiderare. La tragedia del consumista sarebbe quello di non volere più niente. Detto questo, ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo martorizzarci tutti e prendercela con noi stessi, darci delle imbecille uno con l'altro perché continuiamo a comprare le cose, perché non ci rendiamo conto di tutto questo? No, in realtà, cioè, non è che si può tornare indietro. A livello sociale ormai questo surplus, questo portato ideologico dei beni è con noi ed è con noi probabilmente per restare ancora per lungo tempo. È comunque interessante andare a vedere come entrano in gioco queste forze inconsce nel nostro comportamento di tutti i giorni, no? Per fare un ultimo esempio, no? L'ovino Kinder, ragazzi. L'ovino Kinder, che solo in Toscana si chiama ovino Kinder, dalle altre parti lo chiamano ovetto. Che tristezza! Cioè, sto mi dispiace l'ovino. Vero? L'ovino, cazzo. Anche secondo me. C'è Zizek, c'è un video che si mangia questo vino Kinder e è contentissimo. Dice che è un prodotto strabiliante, secondo lui. Perché è un prodotto strabiliante? Perché quel qualcosa in più, il portato ideologico, metafisico, è proprio la sorpresa, no? Quindi questo qualcosa in più, ovvero la causa del desiderio, è proprio materializzata sotto forma di oggetto all'interno dell'ovino Kinder. Però entra in gioco un equilibrio delicato tra il guscio esterno di cioccolato e la sorpresa dentro. Quello che ti viene dato in più. Cioè tu compri il guscio di cioccolato per il valore d'uso, però c'è anche la causa, l'oggetto del desiderio che sarebbe il regalo dentro, no? Quindi il valore d'uso nasconde il valore ideologico. Il guscio ricopre questo oggetto del desiderio. E quindi la sorpresa, la dimensione metafisica, che sarebbe questa cosa che non sai ancora cos'è quando compri un ovino Kinder, è in realtà proprio quell'oggetto che sta dentro di noi. Cioè la sorpresina dell'ovino Kinder è l'oggetto piccolo A. Ecco qua. E qua vedo Mila che ride perché mi capisce. Sì, sì. Ma peraltro, ma che lucidissima analisi, Umberto. Forse dovrei chiamarti un istituto freudiano a parlare di ovino Kinder... E oggetto piccolo A. Cioè, poi mi prendo la bastonata, la prima imprecisione che dico. No, invece assolutamente condivisibile. Cioè, mi viene in mente proprio il ragionamento parallelo nei termini in cui io studio sta roba. Ma siccome, come hai detto te, una volta che ti avvicini a averle capite, poi non le sai spiegare, mi chiedo e mi limito a dirti che sì, è esattamente quello che hai detto te. Anche quello che si studia in... clinica, cioè in psicanalisi applicata alla clinica, quindi al rapporto terapeutico, diciamo. Quindi sì. Cos'è che rende così agalmatico l'ovino Kinder? Effettivamente è proprio ciò che c'è al suo interno. E ciò che nasconde, e se pensate bene, in realtà è sempre qualcosa che ti lascia scontento, perché poi in realtà trovare il contenuto, per quanto poi per l'essere umano sia impossibile, però con l'ovino Kinder questo è reso possibile, quindi tu puoi accedere all'interno di quella plastichina gialla, tendenzialmente rimani sempre deluso, no? E questo anche è una stortura che utilizzano per fartene volere un altro, ma non è così lontano poi quello che succede a noi, cioè che anche quando ci avviciniamo, no? Non lo raggiungi mai, ma sì, ti puoi avvicinare a un appagamento, chiamiamolo così, che non è godimento, proprio l'appagamento del desiderio. Anche se ti avvicini, prima o poi la cazzata per allontanartene la compi, cioè trovi il modo di autosabotarti in qualche modo, proprio perché è il fatto che lì ci sia un posto vuoto che ti rende attivo, operativo il motore del desiderio. Cioè, una volta che tu appaghi questo dispositivo qui... Ma infatti sai cosa mi è venuto in mente di brutto? Mi è venuto in mente Castaway. Che lui c'ha quelle scatole lì, che è un pacco che deve essere consegnato e non le vuole aprire, perché sennò impazzirebbe. È proprio quello. Cioè, allora lì si allontanerebbe ancora di più dal desiderio, dall'appagamento. Incredibile. Vabbè, comunque, insomma, siccome avevo rubato già un casino di tempo, per concludere e riallacciarmi anche a quello che diceva Jill, che era preoccupato anche per i suoi bimbi, beh, dunque, godere troppo, godere di più di quello che è necessario, no? È un male? Beh, diciamo che viviamo in una società che ci impone il godimento, impone il perseguimento costante del piacere in un modo o nell'altro. Anzi, cioè, non contempla proprio la noia, perché, cioè, ci sono talmente tante cose che, cioè, c'è sempre qualcosa da volere di nuovo. Come fai ad annoiarti? Ora, secondo me la soluzione di tutto questo problema non è tanto, cioè, quella di abbandonare tutto e andare nell'eremo, in montagna, o diventare cattolici col cilicio e lasciare i piaceri di questo mondo a chi può goderseli, no? Però, diciamo che qua si vedono un po' i limiti di questa società, di questo costante perseguimento del piacere, di questo i limiti del principio di piacere. E quindi forse si potrebbe provare a pensare che a volte l'appagamento vero sta non tanto, no, nel perseguimento costante del piacere, ma al di là del principio di piacere. Magari, non lo so, sbattendosi 3 o 4 giorni per fare sto monologo e rompervi le palle a voi. E anche bravissimo. Ragazzi, detto a me è rimasto un unico grande interrogativo dopo tutto questo. Ma vai, l'hai preso limone o pesca? L'ho preso al limone, ragazzi. Ma come si fa a prenderlo alla pesca? Dai, dai, pesca tutta la vita. Ma pesca come pesca tutta la vita? Pesca tutta ma qui si vita. Vita. Cioè, no, ma cioè, io pensavo di essere allineato politicamente con è un mondo quello la pesca, Madonna santa. Mamma mia. Anche perché si riduce tutto a quell'unica miserabile scelta: pesca o limone? No, per un periodo c'è stato il tè verde. Ah, sì? Non ha mai funzionato, sì, davvero. Non ha mai funzionato. Sì, infatti abbiamo lo sponsor di questa puntata che è Ferrero. Questa terra. Grazie. Va bene, ragazzi, io concludo così, con una canzoncina degli anni 70. Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa che sta dentro la realtà. Nel dubbio mi compro una moto, telaio e manubrio cromato, con tanti pistoni, bottoni, accessori più strani, far finta di essere sani, far finta di essere insieme a una donna normale, che riesce anche ad essere fedele, comprando sottane, collane, creme per mani, far finta di essere sani, far finta di essere liberi, sentirsi liberi, forse per un attimo è possibile, ma che senso ha? Sei cosciente in me la misura della mia inutilità. Per ora rimando il suicidio e faccio un gruppo di studio, le masse, la lotta di classe, i testi gramsciani, far finta di essere sani, far finta di essere un uomo con tanta energia che va a realizzarsi in India o in Turchia. Il suo salvataggio è un viaggio in luoghi lontani. Far finta di essere sani, far finta di essere. Vanno tutte le coppie, vanno, vanno la mano nella mano. Vanno anche le cose, vanno, vanno, migliorano piano piano. Le fabbriche, gli ospedali, le autostrade, gli asili comunali, e vedo bambini cantare, in fila li portano al mare, non sanno se ridere o piangere, battono le mani, far finta di essere sani, far finta di essere sani, far finta di essere sani. Far finta di essere sani, era quella, no? Di essere sani, sì. Ma ci riusciamo veramente a far finta di essere sani? Mentre ci stiamo riuscendo sempre peggio. Carlo, tu devi alzare il volume, te lo dico subito. Esatto, va? Ancora. Se no non ti si sente. È sempre più difficile comunque, è sempre più difficile. È sempre più difficile fare finta, effettivamente, sì. Esatto, è sempre più difficile anche fare un podcast comunque, cioè nel senso, siamo... siamo sopravvissuti dai problemi tecnici, ma andiamo avanti lo stesso. Sì, nel vabbè, senso forse... che praticamente il mio microfono ha cominciato ora a... Ora va. Non ci sei. Sì, chissà per quanto continuerà ad andare. Alla grande. Dai, allora andiamo velocissimi, salto tutte le teorie che confutano l'homo economicus e quindi tutta l'economia. Dai, classica. Diciamo che qualcosa riprendo io dopo. Cioè... Dai, va bene. E passiamo, diciamo, alla pratica di come, in un certo senso, il consumismo e il feticismo delle merci trova anche applicazione all'interno del contesto culturale. Dove viene creata appunto una fabbrica del consenso e un'industria culturale. Questi sono temi che sono stati trattati dalla scuola di Francoforte, quindi principalmente da Adorno e Horkheimer, in cui i due filosofi di Francoforte volevano mettere a fuoco l'ambigua complessità dell'ideologia capitalista che sembrava sopprimere la dialettica tra cultura e società, possiamo dire. In questo modo l'industria culturale arriva a designare innanzitutto una fabbrica del consenso che ha liquidato la funzione critica della cultura, soffocandone la capacità di elevare la protesta contro le condizioni dell'esistente, e che è una cosa che secondo me si vede palesemente ancor di più in questi giorni di pandemia. Grazie. Ed essa fonda la sua funzione sociale sull'obbedienza, lasciando che le catene del consenso si intreccino con i desideri e le aspettative dei consumatori. La funzione ideologica dell'industria culturale, da quanto emerge appunto agli scritti di Adorno e Horkheimer, si esprime nei processi di feticizzazione della cultura, cioè ovvero il carattere di feticcio dei prodotti culturali indica, richiamando la nozione appunto che dicevi prima te, Umberto, che non è marxista, è di Lukács. In un certo senso, appunto, richiamando la nozione di feticismo delle merci, l'astratto essere per l'altro dei prodotti di consumo, ovvero il valore di scambio che domina la cultura capitalistica alienata, per cui un'opera ha un valore determinato dal mercato e non perché è di per sé un qualcosa. In quanto bene utile a ottenere una distrazione momentanea, la cultura ridotta a feticcio assolve una funzione sociale degradata. L'arte soggiace in questo modo alla logica del profitto, il valore di scambio si sostituisce al valore estetico. L'industria culturale, così facendo, produce un sistema che esclude il nuovo, considerandolo un rischio inutile da perseguire, ed elegge lo stereotipo a norma. Anche queste sono tutte cose che si vedono palesemente e sono solo, diciamo, sotto gli occhi di tutti. Tuttavia, il sistema riesce a occultare questa uguaglianza e a costruire parvenze di originalità e distinzione con l'obiettivo di giustificare la necessità di sempre nuovi consumi e creare l'illusione di una concorrenza e di una possibilità di scelta. Così, per esempio, attraverso i meccanismi di riproduzione in serie, l'industria culturale produce differenze di valore dei prodotti che non corrispondono a differenze oggettive, bensì a una galleria di cliché che vengono diversamente organizzati a seconda dello scopo. L'imperativo è, in un certo senso, non lasciare nulla com'è perché tutto resti tale e quale. Cioè, manomettere tutto per adeguare agli schemi di un'originalità sapientemente organizzata. In tal modo le merci saranno immediatamente riconoscibili come appartenenti al sistema. E quindi anche chi ne usufruisce entra magicamente a far parte del sistema, da cui nessuno vuole sentirsi escluso, perché poi è anche questo il grande tema. L'industria culturale, quindi, diciamo, in conclusione, sfornerà prodotti che avranno solo una parvenza d'armonia, un'armonia che altro non è che condiscendenza nei confronti di una totalità data. La definizione probabilmente più chiara del concetto di industria culturale però è stata avanzata dall'UNESCO nel 1982, che faceva rientrare all'interno di questa espressione la produzione e riproduzione di beni e servizi culturali, immagazzinati e distribuiti con criteri industriali e commerciali su larga scala, in conformità a strategie basate su considerazioni economiche piuttosto che su strategie concernenti lo sviluppo culturale delle società. Questo era... Cioè, scusami. Per esempio, cioè tutta la musica, tutto MTV. Esatto, era in un certo senso facente parte di un'industria musicale. Erano tutte, era tutta industria culturale, quindi tutti i film, tutta la musica, poi cos'altro c'è? Basta. Magari non tutti, semplicemente quelli che raggiungono determinate piattaforme o che raggiungono determinati finanziatori, produttori. Poi è chiaro, c'è sempre qualcosa che riesce a farsi strada anche per vie parallele. Ok. Ma il K-pop non è una di queste. Effettivamente no. Eccolo. Anzi, forse è il miglior esempio di come non è assolutamente una di queste. Esatto. Ma cos'è il K-pop? Qui ci sarebbe, vabbè, è un mondo incredibile. Beh, per capire che cos'è il K-pop bisogna prima capire cosa c'era prima del K-pop in Corea, più o meno. Esatto, esatto. E beh, sostanzialmente è un discorso lungo che nasce a fine del 1800. Comunque il K-pop è il pop coreano, giusto? Okay, diciamolo per chi non lo sa. Specialmente della Corea del Sud, e il tutto si può dire che abbia avuto origine a fine 1800 appunto da un missionario statunitense che esporta in Corea la musica occidentale, fra virgolette, e quindi qui a fine del 1800 si getta il seme. Poi la Corea del Sud ha vissuto un 1900 piuttosto disastrato, in cui appunto ha avuto un dominio giapponese che è andato dal 1910 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in cui, per ritornare appunto alla seconda puntata, se non sbaglio, la musica occidentale che era stata esportata lì dal missionario statunitense veniva usata in un certo senso come musica di protesta contro il colonizzatore giapponese. E quindi da lì ha cominciato a far breccia all'interno della società e della cultura coreana, la musica occidentale di matrice statunitense. Poi che cosa è successo? Nel 1945 Truman getta le due bombe atomiche sul Giappone, il Giappone quindi si ritira dalla guerra, si ritira anche dalla Corea del Sud e a quel punto parte immediatamente la guerra fredda, che appunto ha visto contrapposti i due schieramenti statunitense e russo, però poi insomma in un certo senso quindi... la Corea, sia del sud che poi del nord, sono diventate il terreno di scontro almeno dal 50 al 53 della guerra fredda. E in questi anni che cosa succede però? Appunto, la Corea viene divisa in due, quindi il nord appartiene al comunismo, mentre il sud viene, diciamo, ci vengono mandati i militari statunitensi e dell'ONU. Il nord comunista però nel 1950 invade il sud, e un intervento dell'ONU capitanato dagli USA con il generale MacArthur respingono l'offensiva ed entrano nel nord, finché il generale, preso da un impeto quasi fallocentrico probabilmente, pensa, beh, dato che siamo entrati nel nord, attacchiamo la Cina, e chiede a Truman di sganciare delle bombe atomiche sulla Cina. A quel punto Truman decide di destituire MacArthur a causa delle eccessive idee bellicose. Beh. E quindi sostanzialmente in questo conflitto ad un certo punto si arriva ad un trattato, neanche un trattato di pace, diciamo ad un armistizio che divide la Corea in due poli opposti, e così è rimasto. Il numero delle vittime causate dal conflitto è stimato in 2.800.000, tra morti, feriti, dispersi, metà dei quali civili, per non parlare appunto del numero di prigionieri politici torturati e uccisi, perché ipotizzati filocomunisti o simpatizzanti. Il tutto, fra l'altro, all'interno del famoso fenomeno del McCarthyismo che invase gli Stati Uniti appunto durante il mandato di Truman, soprattutto per via della sua dottrina, per la quale gli Stati Uniti dovevano farsi carico della lotta globale contro l'avanzata del comunismo, impegnandosi attivamente in ogni paese che fosse minacciato da essa. Sì, è proprio stato il momento in cui avevano stanziato un botto di soldi, perché era diventata tipo la priorità degli Stati Uniti era fermare il comunismo, no? E quindi esatto. ci misero apposta qualcuno, tipo una specie di mezzo dittatore, no? Sì, fra l'altro da lì si sono susseguite varie repubbliche, ma sostanzialmente di democratico avevano ben poco. Mm-mm. Diciamo, si sono liberati i sudcoreani nel 1988 con una rivolta studentesca e civile che è costata la vita a più di 200 persone e che in un certo senso ha unificato il paese e ha portato a una democrazia, fondamentalmente. Ok, però insomma c'è questa mega influenza degli Stati Uniti che... Esatto. Negli ultimi 50 anni. E cosa succede? Mi sa che a quel punto fondano la prima etichetta musicale. Sì. Mi ricordo, c'è sta storia, adesso non so di preciso, correggetemi se sbaglio, ma mi pare che la prima etichetta musicale abbia provato prima con un tizio, insomma, a fare la prima hit pop ispirata a quelli americani, però è stato un fallimento, e quindi da quel momento il tizio proprietario della casa discografica ha deciso che non avrebbe mai più commesso un errore del genere e ha cominciato a preparare tutto a tavolino, ultra studiato, per riuscire ad avere successo per forza. Sì, è andata così. Sì, è l'industria musicale coreana che ha probabilmente scimmiottato e preso la parte peggiore di quella che era l'industria musicale statunitense. E quindi la cosa sconvolgente è che quest'industria non è che va a ricercare talenti all'interno della società, ma li crea. Cioè, mm-hmm. ovvero tramite questi contratti che si chiamano incredibilmente slave contract, cioè ovvero proprio contratti di schiavismo, fanno delle audizioni a bambini e bambine dagli 11 ai 13 anni, quindi che non sono minimamente in grado di capire la portata di quello che stanno firmando, e sono contratti lunghissimi che durano fino a 13 anni, in cui loro si impegnano a prendere lezioni che arrivano alle 10-12 ore al giorno, che si devono pagare da soli di ballo, di canto, di qualunque cosa, cioè creano dei prodotti sostanzialmente, e all'interno di questi contratti loro devono in alcuni casi addirittura ricorrere alla chirurgia estetica. È vietato a queste persone, a questi ragazzi e ragazze, di sposarsi, perché devono comunque mantenere un'immagine appetibile per chi usufruisce, per chi consuma quel prodotto, no? Devono comunque rimanere single, perché fa più figo se ti sposi, crolla, no? Crolla la magia in un certo senso. Umbe, che volevi dire? Questa cosa della chirurgia estetica. Ho sentito che la Corea del Sud è il paese con più interventi di chirurgia estetica. Pro capite al mondo, sì. E anche insomma, tutte le star del K-pop devono essere perfette, come hanno un difetto, no? Devono ricorrere alla chirurgia estetica addirittura per contratto, hai detto. E questa cosa, ecco, mi fa pensare bene a come il consumo dell'industria musicale, no, si traduce in abitudini e in scelte e in ulteriore consumo, no? Per restare in tema consumismo, sì, di un determinato tipo di beni, in questo caso la chirurgia estetica, no? Sì, no, ma infatti sono storie pesantissime. Cioè, alcuni di questi ragazzi e ragazze, nel momento in cui sono riusciti a venire via dalla Corea del Sud, comunque hanno denunciato queste cose. Alcuni, insomma, ci sono usciti non proprio bene, ecco, insomma, con problemi di bulimia, anoressia, insomma, storie pese. No? Miley Cyrus, come si chiamano? Anche quello non è che le sono uscite tanto bene, mi sembra, ragazzi. No, in effetti no, allora Britney Spears è diventata simpatica, però. Sì? Si è ribellata. Sì, si è ribellata. Adesso è entrata, vuole scendere in politica, diventerà la prima presidente degli Stati Uniti. Davvero? Secondo me sì, un giorno. Comunque dai. Oddio, bisogna andarsi a rivedere la puntata, prepariamoci, via. Volevo parlare di Baudrillard, però me la salto e la lascio per un'altra volta. Poi parliamo di Baudrillard e di Matrix, dai. Metti un di Matrix, Nick. Addirittura? Eh sì, perché non si può parlare di Baudrillard senza parlare di Matrix. Fra l'altro è tutta un'allegoria transgender, Matrix. Ma questa cosa non l'ho mai sentita, però penso ci siano miliardi di interpretazioni interessanti da sentire. Sì. Comunque, insomma, per finire sul K-pop, diciamo che paragonato alla musica pop occidentale, contiene una parte minima di sesso, droghe o comportamenti aggressivi, ed è orientato ad ottenere l'approvazione dei genitori. Cioè, questo per dire che comunque ci sono delle differenze fra il pop di matrice statunitense e il pop comunque di matrice coreana, perché comunque devono... questi prodotti devono andare ad assolvere a delle funzioni diverse, devono fare breccia comunque in delle società che sono ben diverse. E secondo alcuni punti di vista, il K-pop ha colmato il vuoto tra le esibizioni sessualizzate degli artisti americani e quelle compassate dei loro colleghi asiatici, esemplificando i valori della classe media urbana e suburbana, che cercano di essere accettabili allo stesso tempo sia per i giovani che aspirano all'università sia per i loro genitori. Quindi un mondo che non suggerisce niente della povertà e della violenza del centro città, del radicalismo corporale o sessuale, o della devianza sociale e dell'alienazione culturale. Un sacco di contenuti, insomma. Esatto. E questo su YouTube ha miliardi di visualizzazioni, quindi cioè, non è che è un prodotto soltanto per la Corea del Sud, perché la Corea del Sud ha circa 50 milioni di abitanti, quindi è un prodotto che ormai si è esteso in tutto il mondo. Dischi d'oro in Europa, ragazzi. Cioè, 4, e tutto è cominciato con PSI, fra l'altro, col Gangnam Style. Sì. Ipnorosco. Perché anche quello è K-pop. Ma... non proprio, però ci sì. Beh, non proprio, però, però se vai su Wikipedia c'è scritto che appartiene al genere K-pop. Allora sì, è coreano, è pop in effetti. Eh sì, eh sì. A questo punto forse dobbiamo accollarci un pezzo K-pop. Aia. Arriva. Non più le cuffie, siamo pronti? Non lo so. Soffro. Allora... La chiuda anche il programma. No, ecco, eccola. Like 해볼래 해 그 따뜻한 떨림이 새빨간 설렘이 마치 해변 끝이지만 You might not get in it. Look at me, look at you. 누가 더 아플까? You smile. 누가 you are? 내 눈에 빛나물 흐르게 된다면 so sorry. 누가 you are? 난 어떡해? Sanguinando adesso anche le mie orecchie un po' sì, eh? Ma perché, che è successo? Non ho sentito niente, ragazzi, mi sono perso qualcosa. Che pop, un mondo non ti andavano le cuffie, detto un tecnico proprio al momento sbagliato, ma sono davvero dispiaciuto. Comunque me la ascolterò, sicuramente. Questo era un gruppo tutto al femminile, ma ce ne sono anche altri tutti al maschile, insomma è un mondo interessante. Poi magari ne riparliamo. Direi basta con il K-pop. Ci hai letteralmente aperto un mondo. Non volevo, giuro. Volevo farvi paura. Ma torniamo al nostro mondo, ragazzi. Mi sentite? Sono vicino al punto giusto? Voce c'è? Sì, okay. Perfetto. Alla grande. Gille, sì. Anche torniamo al nostro mondo. Perfetto. Sono felicissimo, vedi? Felicità da acquisto. Comunque, ragazzi, c'è stato, per chi ci ascolterà, giustamente, il Black Friday. La settimana del Black Friday. Che cos'è il Black Friday, però? Tutti lo conosciamo, no? È la giornata in cui abbiamo... degli sconti paurosi su vari prodotti, però non tutti magari conoscono la storia del Black Friday. Ovviamente è una tradizione tutta americana, come non poteva essere una cosa del genere. È uno speciale venerdì e viene l'indomani del giorno del ringraziamento, ed è la data in cui, secondo una tradizione che si è consolidata negli anni 60, quindi pensate un po' da quanto c'è questa roba, mm-hmm. i negozianti americani propongono sconti speciali per incentivare lo shopping e dare il via alle spese natalizie. Quindi, come noi ormai si fa l'albero a fine novembre, loro partono con le spese natalizie la settimana del ringraziamento. Si sono inventati una nuova vigilia chiama... di Natale. Si sono inventati una tradizione. Sì, almeno si comincia a comprare ancora prima, no? Esatto. Alla Fidelity con il Black Friday. Perché si chiama proprio venerdì nero? Perché all'epoca i registri contabili dei negozianti si compilavano a penna, usando l'inchiostro rosso per i conti in perdita e quello nero per i conti in attivo. Ecco perché il nome venerdì nero. Qual è l'importanza, però, se vogliamo proprio andare no, a trovare il pelo nell'uovo di questo giorno, di questo evento? Fondamentalmente è anche la previsione economica, perché il Black Friday è visto da diversi analisti finanziari come un indicatore statistico della propensione ai consumi e alla spesa negli Stati Uniti. Quindi, ragazzi, se ci avete da comprare anche delle azioni, magari muovetevi un po' prima. Potrebbe essere un'idea. E l'immagine che abbiamo un po' tutti, no, di questo Black Friday, soprattutto quando ancora in Italia o in Europa, insomma, se vogliamo, non era così famoso, di queste folle accampamenti fuori dai grandi magazzini, folle che all'apertura delle porte si uccidono letteralmente, per arrivare ad accaparrare magari i primi 10 posti a cui viene garantito lo sconto addirittura dell'80, se non di più, per cento. E questa immagine qui ovviamente a noi ci ha fatto un po' sorridere, io non conoscevo l'episodio, ma comunque l'abbiamo vista anche su South Park, no? Questo venerdì nero, in una puntata in cui appunto viene messo alla berlina, e per questo perdonatemi ragazzi, ma io vi devo mettere questo piccolo pezzettino jingle. Integrity Farms, gonna have myself a time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. Going down to Integrity Farms, gonna leave my woes behind. There's apple parking day or night, people spouting, howdy neighbor. I'm heading on down to Integrity Farms, gonna see if I can unwind. I got some weird, I don't even know what's going on. So come on down to Integrity Farms and meet some friends of mine. Scusate, ma lo dovevo fare, piccola dedica. E a proposito appunto delle folle, vi volevo parlare di un libro che si chiama La psicologia delle folle, visto che siamo anche in tema psicologia. Sono andato a scavare un pochino all'indietro e ho trovato questo scritto di Gustave Le Bon, che fu un personaggio molto controverso del ventaglio intellettuale francese del secolo scorso, perché lui era filosofo, sociologo, psicologo e biologo. Più ne hai e più ne metti, e per una vita si fece chiamare professore senza però mai aver conseguito la laurea. Quindi l'attendibilità di questo testo, ragazzi, io l'ho trovato curioso, però abbiate pietà, Quindi La psicologia delle folle è oggi il suo più celebre ed attuale scritto, e definisce il concetto di folla, ne studia il comportamento e le tendenze, le istanze psichiche, cioè le necessità, che muovono la sua approvazione o la sua disapprovazione, e spiega anche come dominarla e persuaderla. E alla fine che cos'è poi la folla, no? Ci possiamo considerare folla anche secondo me sui social, volendo. All'interno della folla dunque esiste la sola caratteristica dell'anonimato, cioè a tutti gli effetti un fenomeno di deresponsabilizzazione dell'individuo. La folla si esalta, si lascia sedurre e adulare, è violenta, però allo stesso tempo può dimostrarsi eroica, è sempre irrazionale e odia la logica e il ragionamento. Secondo sempre Le Bon, il buon oratore non può fare uso del ragionamento logico e scientifico, e tantomeno del buon senso. È invece la metafora assurda e infondata, la similitudine sbalorditiva, l'iperbole, l'esclamazione, la violenza. È tutto ciò che provoca una reazione emotiva forte ad essere in grado di animare la folla. Non serve un pennello grande, ma un grande pennello. No, noi giocatori così mi sa che ne conosciamo abbastanza, no? Posso chiedere se vi ricorda qualcuno? Ah no, non posso? No, non puoi. Non posso. Ho capito che... Sì, okay. Non poteva neanche lui, in effetti. Neanche lui poteva, vabbè. si trasmettono nella folla con tanta forza che ogni suo membro è in grado di agire contro i propri interessi. Perché fondamentalmente l'interesse si muove solo nell'individuo isolato. Le considerazioni di Le Bon rimangono tutt'oggi, secondo me, abbastanza affascinanti. E poi se qualcuno vuole intervenire può, non me la prendo. Però, insomma, per essere un concetto, diciamo, del secolo scorso, secondo me è molto interessante. E nonostante sia cambiato il contesto storico e i mezzi con i quali si adula la folla, a muoverla comunque sono sempre le stesse istanze. E quindi mi viene una domanda, ragazzi, a riguardo. Secondo voi è una questione di qualità o è una formalità? È una formalità. È una questione di qualità. La dovevo mettere. Sì. Eccoci. Sì. Ok, parentesi CCCP a parte, continuavo questo discorso chiedendomi come si può uscire da un sistema dove noi siamo il target, l'obiettivo, no? Il bersaglio del mercato e non solo. Propongo questo articolo che si intitola Sopravvivere al capitalismo di sorveglianza, la lezione dell'Odissea, no? Il poema epico greco del poeta Omero, Pascalo Homer. Allora, è assurdo e premetto che ci metto il massimo dell'impegno, ma devo leggere perché preparato in questi pochi giorni, ragazzi, è un viaggio in tutti i sensi. Comunque, ci provo. Allora, la vita è stata oggi ceduta in parte non più a un'ideologia politica, no? O a uno stato dittatoriale, come era il Novecento, ma a un oligopolio di imprese private, più o meno. Come se ne può uscire? In tempi di coronavirus può sembrare fuori luogo tornare a scrivere di libertà e di privacy in rete, perché ovviamente ora ne stiamo facendo tutti un uso molto abbondante. Aggiungendoci poi Polifemo, penso che sia molto estremo. Ma questo è appunto una condizione eccezionale. Non ci deve impedire di ragionare su come invece abbiamo volontariamente e progressivamente rinunciato a molta della nostra libertà, in parte cedendola, o meglio vendendola, alle imprese private della Silicon Valley. Questa vuole essere una provocazione che si muoverà cercando le possibili analogie tra Polifemo e vari Bezos, Jobs, Zuckerberg, Gates. I nostri Fantastico. Amici che ritornano, no? Ok. Quindi il nostro Polifemo, diciamo, più o meno sono queste grandi aziende. In realtà è un argomento serissimo nelle sue intenzioni critiche, volte a cercare di capire come e perché siamo diventati così ingenui. Imbecilli no, perché non voglio offendere nessuno. Così, allora, ingenui da lasciarci profilare, ovvero spiare in massa dal big data, no? Le imprese private tecnologiche che appunto menzionato anche prima. Con l'avvento del tecnocapitalismo, perché di questo si tratta, la vita intera di un individuo è diventata risorsa, capitale, merce e dato. Va bene, fatta questa premessa, riprendiamo e rileggiamo questa parte dell'Odissea. Ok, Ulisse nel suo lungo viaggio per tornare a Itaca sbarca nella terra dei ciclopi. Ciclopi sarebbero l'oligopolio della Silicon Valley. Spinto dalla curiosità e dalla voglia di conoscenza, entra con alcuni compagni nella grotta di Polifemo. Intrappolato nella caverna, che sarebbe il web, cioè la rete, insieme ai suoi compagni, all'ingresso bloccato da un masso enorme, che possiamo pensare come un algoritmo, un'intelligenza artificiale, un social. Ulisse allora escogita un piano per fuggire. Come prima parte del piano, Ulisse offre del vino dolcissimo al ciclope per farlo cadere in un sonno profondo. Ringraziarlo dell'offerta, prima di addormentarsi, Polifemo promette però a Ulisse un dono, chiedendogli in cambio di conoscere il suo nome. E quindi gli chiederebbe i suoi dati, fondamentalmente. Ulisse, in maniera astuta, risponde di chiamarsi Nessuno. E arriviamo alla scena clou. Ulisse e i suoi compagni piantano un ramo appuntito arroventato nell'occhio del ciclope. L'occhio ovviamente richiama il grande fratello, no? Al big data. Il ciclope che appunto sta dormendo. Polifemo ovviamente si sveglia dal dolore, urlando sveglia dal sonno anche gli altri ciclopi, che gli domandano perché stesse invocando aiuto. Nel mentre, nel tumulto, Ulisse e i suoi compagni si nascondono vicino al gregge, ancora chiuso all'interno della grotta. Polifemo risponde che nessuno stava cercando di ucciderlo. I ciclopi allora pensano sia ubriaco e se ne vanno tranquillizzati. Ma che vuole sto ubriaco? No. Giustamente. La mattina, mentre Polifemo fa uscire il suo gregge per mandarlo a pascolare, Ulisse e i suoi compagni scappano aggrappandosi al ventre delle pecore, così da evitare che il tocco della mano del ciclope accecato possa identificarli o insomma sentirli nella fuga. Accortosi poi della loro fuga, Polifemo si spinge su un promontorio da dove alla cieca, con la rabbia e lo sconfitto, inizia a gettare le rocce verso il mare cercando di affondare la nave di Ulisse e dei suoi compagni. Ed è qui che Ulisse, Narciso, tornando anche a quello che ha detto Umberto, e come noi anche nella rete, no, perché ci mettiamo comunque in mostra, commette un errore gravissimo, ovvero grida ridendo, rivolto verso Polifemo: se qualcuno ti chiederà chi ti ha accecato, rispondi che non fu nessuno, ma fu Ulisse d'Itaca. A che Polifemo, Silicon Valley, ricordiamoci, perché Polifemo è la Silicon Valley, lo maledice invocando Poseidone, suo padre, cioè il tecnocapitalista, pregandolo di non farlo mai ritornare a Itaca, a ritrovare se stesso e Penelope, insomma, e Telemaco. Certo. E qual è la morale? La morale ce l'abbiamo, così come la razionalità solo calcolante e industriale di oggi ci vuole sempre più a navigare senza meta per anni in una rete, o il mare come per Ulisse, messi a lavoro da un capitalismo che abusivamente si autodefinisce social, e invece è cosa tutta diversa da sociale, perché ogni social fondamentalmente è un'impresa capitalistica, quindi strutturalmente desocializzante. Certo. No? Sì. E quindi concludo chiedendovi se potrebbe contribuire alla fine del capitalismo il boicottaggio della televisione e dei media che l'affiancano. E dei social. Esatto. Sì. Chissà. Non solo dei social, comunque. Vabbè, sì, diciamo che in maggior parte di quello. Il sì, problema facile, del boicottaggio è che se si è fatto in modo individuale è completamente inutile. Esatto. E in un mondo che strutturalmente, capito, ormai i social li ha integrati talmente tanto che se metti che io e te facciamo la stessa professione, io uso i social e tu no, io accumulo dei piccoli vantaggi che poi alla fine si traducono in grosse differenze materiali rispetto è vero, a te. È vero. Quindi abbandonarli individualmente è come tirarsi una pietra sul dito del piede e però farne buon uso, insomma, poi le cose si cambiano da dentro, le cose si cambiano da dentro, ci può essere una spinta per, cioè, perché cambiano certe cose, quelle cose magari penso che possano funzionare di più. Sì. No, dicevo sì, anche sì. Sulla privacy, per esempio, si dà tante cose per scontato, no? Quando si entra su i siti e si preme sui cookies accettandoli tutti e magari poi si scopre che ci sono ricerche di mercato, profiling, no? Assolutamente. Vari tipi, e ci quindi si può fare tutta magari una serie. Uno ci dovrebbe dare un'occhiata a disabilitare prima quello che non è magari l'essenziale sulle nostre informazioni e... insomma, invitare al buon uso di internet, perché non è scontato. Assolutamente. Va bene, ragazzi, è stato un bel viaggio, spero volerete, cioè navigherete ancora con noi e riusciate a tornare a casa. Esatto. Vi mando l'ultimo pezzo. Everybody knows it. Everybody knows I lie. La, la, la, la. You're the same. You're never going home. You're never, you're never. Yes. Eccoci. Eccoci tornati. Siamo ancora e parliamo di consumismo. Ancora a parlare di consumismo. E non so voi ragazzi, ma a me era sfuggita una notizia che ormai è di qualche anno fa, ma è del boss del reparto sostenibilità dell'IKEA, che era, o non so se è ancora, Steve Howard. E praticamente a un certo punto ha fatto questa dichiarazione dicendo che abbiamo raggiunto il peak stuff. E per loro è un modo di dire che si parla di peak oil, si parla di, cioè, il picco di qualcosa, il picco del valore, il picco in generale di saturazione, ecco, direi più così. Quindi in un qualche modo siamo saturati di roba, dice lui. Siamo arrivati a un punto per cui siamo veramente saturati di tutto, dice anche di arredamento di interni, quindi parlando anche del suo. E quindi la domanda, no, è ovvia, come abbiamo fatto a ritrovarci immersi in una quantità di roba spropositata a questo modo? E fondamentalmente ci sono, seguendo un po', diciamo, l'approccio più mainstream, direi così, perché poi andando a vedere appunto gli studi più specialistici non rispecchiano più questa cosa appunto un po' più comune di parlare del comunismo, del consumismo, e fondamentalmente sono due modelli principali. Uno è quello che praticamente deriva dalla società opulenta di Galbraith, e quell'altro invece è quello di Veblen e del consumo ostentativo. Quindi da una parte la società opulenta viene descritta come la società che si forma dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel momento in cui la società inizia letteralmente a cambiare forma, e quindi da una società, come la descrive, fino ad allora fondamentalmente la società pre-opulenta avrebbe semplicemente pensato a quelli che erano dei bisogni, delle cose più semplici, ci si invece incentra sempre di più sui possedimenti materiali. Quindi dalla società dei bisogni alla società dei wants, cioè dai needs ai wants, cioè dai bisogni ai voglio, cioè abbiamo bisogno di quella cosa lì, ma in un senso di volerlo per forza. E quindi questa società che si allontana sempre di più dai concetti importanti come il benessere pubblico. E quindi è spinta sempre di più da questo voglio a consumare e ad avere sempre più roba. L'altro modello invece, quello di Veblen, è quello del consumo ostentativo. E fondamentalmente questa è una cosa che sicuramente si rintraccia appunto anche in tutta la storia, che le classi, quelle più abbienti, quindi i ricchi, ostentavano in un qualche modo con sia i possedimenti materiali, ma non solo, fondamentalmente da sempre l'uomo cerca di distinguersi per lo status, e questo implicava fondamentalmente una sorta di forza imitativa. Quindi la classe media non voleva altro che imitare in un qualche modo i grandi ricchi e lo status e il tipo di vita che avevano loro. Per quanto su questa cosa qui non ci sia minimamente dubbi, viene però data come conseguenza a questo modello il fatto che l'inuguaglianza economica, quindi la famosa forbice che si allarga sempre di più, non è altro che il miglior combustibile per questa febbre del lusso. E quindi tutti, più i ricchi sono ancora più ricchi e hanno ancora più yacht e ancora più roba, più tutti noi cercheremo di arrivare a possedere tutta quella roba. Ora, facciamo subito un esempio calzante, secondo me. 1952 in Germania. Siamo in pieno piano Marshall, è finita da poco la guerra, quindi fondamentalmente l'America sta letteralmente inondando l'Europa di soldi per la ricostruzione. Però cosa volevano gli americani? Siccome, come per dire, probabilmente, non so, o non si fidavano, comunque volevano dare un peso anche più culturale a questa cosa, avevano introdotto anche delle competizioni a livello, non ho ben capito se scolastico. Fatto sta che c'è questa competizione di foto che era basata sul discorso di costruire nuove case, quindi doveva essere un nuovo mondo senza guerra, e quindi riflessioni su questo tema. E questa ragazzina di 19 anni, si chiama Hardy, vince il premio, che sono dei soldi più una Vespa. E fondamentalmente lei risponde ai burocrati tedeschi che gli mandano a dire appunto che lei ha vinto questo premio, dicendo: guardate, sono contentissima di aver vinto il premio e tutto, però non vorrei suonare insomma irriverente, però non è che potrei avere fa una lambretta invece che della Vespa, perché la lambretta ora è tipo più figa, no? E comunque tutto l'anno che ci pensavo la lambretta di qua e di là. E vabbè, la lambretta questa figliola non la piglia, non gliela danno, però a prescindere da quello che ci deve far pensare è che è difficile trovare un taglio netto. Cioè è difficile trovare un momento in cui questa ragazza aveva 19 anni nel 52, quindi questa era nata nel 33. E quindi cioè, fondamentalmente era appena, non so cioè come definire, a una via di mezzo, no? Alla fine era comunque nata e cresciuta in una società che doveva essere preopulenta, quindi gente che comunque, ma giustamente, uscivano dalla guerra, non è che pensavano a granché, pensavano ad avere una casa, un pasto, un lavoro, cose molto basilari. Eppure c'erano già le diciannovenni che pensavano ad avere il motorino figo, per parlare un po' in termini più moderni, no? Quindi già questa società opulenta, insomma, comincia a non tornare poi più di tanto come spiegazione. Quindi il consumo sicuramente affonda le radici molto più indietro nel tempo. Una delle accelerate più grosse che c'è stata è stata nel XVI e XVII secolo, in quanto fondamentalmente il commercio è esploso e si viene formando una cultura anche della socialità intorno a certi beni che prima non esisteva. Ovvero, sto facendo riferimento principalmente al caffè, perché le teiere, le caffettiere, eccetera, eccetera, fondamentalmente sono state una delle prime cose che veniva utilizzata a livello di tempo libero e che quindi servivano per condividere il tempo libero, cioè oggetti che servivano appunto da utilizzare al di fuori dell'ambito magari lavorativo, dell'uso, visto che prima si parlava di feticismo, poi si cercherà di unire un po' i puntini. Quindi in questo XVI e XVII secolo dobbiamo un'introduzione prepotente, direi, di una cultura proprio del consumo, in primis all'Olanda e l'Inghilterra. Cioè primeggiano realmente, la creano dal nulla una cultura del consumo, potremmo dire ancora, non so, abbondante, non di massa, perché magari ancora non è realmente di massa. Come abbondante ci sta. Fondante. E gli elementi fondanti qual erano di questa nuova cultura? Fondamentalmente c'era alla base i commerci atlantici e gli imperi europei in piena espansione. Quindi un'altra cosa che aveva l'Inghilterra in quel momento erano i salari rialzati, perché erano usciti dalla peste e quindi fondamentalmente avevano meno persone e quindi avevano aumentato i salari a tutti, e questo ovviamente portava a un maggior potere d'acquisto. E poi avevano degli assetti urbanizzati. Quindi avevano l'Olanda e l'Inghilterra in quel momento erano più urbanizzate. Quindi se fate conto che circa nel 1500 una persona su 30 abitava in città, quando si arriva nel 1800 ce n'è una su 4. E questo ovviamente non porta altro che ad azzerare i limiti anche fisici che ci sono, no? Tra l'uomo e i beni, nel senso che scendi in città e sei letteralmente circondato potenzialmente da negozi e quindi anche la distanza si è ridotta fisicamente. Quindi tutti questi aspetti economico-sociali sono importanti, ma in generale è proprio un orientamento culturale che si viene a creare verso il consumo e i beni in genere. E questo concetto viene espresso perfettamente da William James, un filosofo statunitense, quando parla del sé materiale. Cioè lui descrive l'uomo e dice: l'uomo ha un sé psicologico, ha un sé sociale, quindi ha un sé, una psiche interna, ha un sé che è in riferimento ai rapporti con gli altri, ma anche un sé materiale. E questo sé materiale fondamentalmente non è altro che composto da tutti gli oggetti, tutti gli hobby, tutte le cose che facciamo e che possediamo. E che a un certo punto sono proprio state viste come estensioni della personalità. E quindi quando anche prima dicevi, Umberto, riferimento a Lacan, che parlavi degli oggetti che non ci servono, eccetera, in realtà è anche forte proprio perché è come se rischiassimo di perdere un pezzo di noi stessi quindi la viviamo male a questo modo, e infatti anche la sindrome dell'accumulo c'ha sicuramente a che vedere con queste cose, perché buttare via cose che ci appartengono, che fa parte del nostro passato, che sembra di perdere un pezzo di noi in un qualche modo. Esatto. Questo se è materiale. Estensioni, sono estensioni della nostra persona. Estensione materiale del sé. Esatto. E anche Hume, che ci sono rimasto sospeso, sono rimasto sorpreso, che era a favore del lusso modesto, perché secondo lui rendeva la gente più intelligente, le società più ricche, quindi cioè anche personaggi di altissimo spessore culturale erano completamente presi da questo consumo materiale. Tutti e quindi compiaciuti. Attecchisce ovunque, attecchisce nei romanzi, attecchisce nella cultura del DIY, quindi del do it yourself, cominciano ad esserci i primi home improvements, quindi le prime cose che facevi in casa da te, e anche nella religione. I mormoni sono un caso estremamente calzante. Joseph Smith was called a prophet. E fondamentalmente oggi ha buttato dei riferimenti a South Park. Davvero, ci sta benissimo. Ci siamo messi d'accordo. E cioè i cristiani, in un qualche modo, almeno la Chiesa, fino a un periodo poco prima, diciamo, aveva comunque condannato il consumo a livello ostentativo, no? In quel senso. Mentre a un certo punto con i mormoni viene fuori un po' questa nuova chiave di vedere il mondo e i beni che ci pone, perché nel momento in cui il mondo è stato creato da Dio per noi, per goderne, e il mondo è pieno di sorprese, di invenzioni e di prodotti ancora da scoprire, un buon cristiano non deve far altro che godere di tutto questo ben. Quindi nascono i grandi magazzini poi in questo periodo, fine 800 siamo sempre, e non so, uno dei più importanti, come viene in mente Harrods, e nascono proprio consciamente come musei commerciali, cioè non erano esclusivamente dei negozi e ne erano consapevoli, erano proprio una sorta di display di tutto quello che la società occidentale era riuscita a circondarsi, tutti gli oggetti più esotici e più strani che potevano essere lì, anche magari senza avere un utilizzo o un mercato vero e proprio. E inoltre, analizzando, diciamo, il consumo o in generale il consumismo dal punto di vista storico, si può notare come a volte dei grandi cambiamenti si influenzano a vicenda, no? E un esempio è quello del nuovo imperialismo, che c'è stato appunto tardo 800, e il consumo che si è andato a aumentare di pari passo. E quindi ti chiedi perché queste due cose sono in un qualche modo cresciute nello stesso periodo, ci deve essere qualcosa magari che le linka. E una cosa a cui non avevo minimamente pensato, ma che effettivamente, cioè, è una delle cose più scontate, forse una volta che uno la sa, è il movimento contro la tratta degli schiavi, cioè fondamentalmente la liberazione degli schiavi ha fatto sì che si creasse un movimento culturale che non faceva altro che dire: ok, fino ad ora avete potuto dimostrare la vostra ricchezza avendo un sacco di persone, possedendo un sacco di persone. Ora questo non si può più fare, perché abbiamo deciso che è sbagliato, e quindi non si posseggono più le persone, non si commerciano più, basta con la tratta degli schiavi, basta con gli schiavi, riempitevi di roba, fate vedere che siete ricchi comprando roba, consumate, accumulate e comprate roba, almeno si passa da un possedimento di persone a un possedimento di beni, e da questo punto si può solo essere contenti, no? Che si sia andato in quella direzione. Cambia lo status symbol praticamente. E non solo, c'è anche un rifacimento dei beni esotici, cioè per ritornare appunto al discorso che nella storia si vede come le classi più alte volevano creare la differenza, cioè fondamentalmente sono società razziste, estremamente razziste queste, non ci si pensa, ma è proprio vero. Connaturato con la loro mentalità. E quindi cosa succedeva? Che i prodotti come il caffè, ma in generale anche tutti i prodotti esotici che cominciavano a girare, all'inizio, nel 500-600, avevano il valore proprio nell'essere esotico. Cioè nessuno sapeva neanche come farlo tra un po' il caffè. Eppure era proprio lì che era una cosa figa da comprare e costava un sacco di soldi. Dopo invece questa cosa qui viene completamente ribaltata, cioè il valore esotico del caffè non esiste più. Perché il caffè lo facciamo noi, ovviamente, no? Il caffè è il caffè italiano, c'era il caffè di New Orleans, solo perché New Orleans era fondamentalmente il porto dove arrivava il caffè, ma il caffè noi non l'abbiamo fondamentalmente mai fatto. Però lo stesso, l'abbiamo cominciato a rigirare in maniera tale da dire, sì, il prodotto viene da posti dove ci lavorano persone che fra un po' non le consideriamo nemmeno persone, ma insomma tutto il valore che c'è nel caffè è per come lo lavoriamo noi in Europa, nel senso non c'è il valore nella materia prima, che ce ne frega di dove lo fanno, nel senso l'importante appunto è che si trasferisse questo razzismo in un qualche modo più velato anche all'interno dei beni di consumo. E invece altre due cose che si influenzano a vicenda come macro argomenti sono l'ineguaglianza sociale, che appunto, come dicevo prima, viene considerata come un carburante, no? Per il consumo. Assolutamente, sì. E la spesa sociale. Cioè, se si guarda solo all'ineguaglianza, come tipicamente le analisi sul consumismo fanno, il discorso è questo. Si guarda al 10% più ricco del mondo e si guarda all'income, quindi al guadagno che hanno avuto negli ultimi magari fai 100 anni. Si vede benissimo che dagli anni 70 questo 10% ha cominciato ad arricchirsi molto. Molto tanto. E quindi cosa succede? Dice, ecco la causa dei nostri mali, no? I ricchi si sono cominciati a arricchire troppo e quindi ora fanno un consumo ostentativo, sfarzo, incredibile, ci portano tutti a voler consumare tanto quanto loro. C'è un problema, perché anche nel periodo in cui invece l'eguaglianza, cioè nel periodo d'oro dell'eguaglianza, quindi tra gli anni 40, fine seconda guerra mondiale e gli anni 70, è stato il periodo d'oro, cioè l'eguaglianza era a livelli fondamentalmente mai visti prima, quindi non c'è stato un aumento della disuguaglianza economica, eppure quelli sono gli anni del boom economico. Le persone che avevano bisogno del frigorifero, della macchina e di tutta la roba che in generale avevano, cose che usavano e cose che sicuramente magari non usavano, ma anche magari dei romani potremmo andare a trovare cose che avevano set di 10-12 coltelli e posate, che dice vabbè, ti poteva anche bastare un coltello e una forchetta invece che da venne una sfilza, tutti diversi. È un po' un culto, un fetish proprio che abbiamo nei confronti degli oggetti, perché li viviamo come forse estensioni della persona. Questa era una delle cose. È una condizione umana, sicuramente, che nasce veramente con l'uomo, è questo sicuro. Quindi, per vedere di più come spiegare che anche nel momento di calo della disuguaglianza economica c'è stato un boom di consumo, bisogna guardare anche la spesa sociale. Quindi si guarda sì che c'è stato un calo della disuguaglianza, ma si vede che dagli anni 50, 60 è cominciato poi negli anni 70 specialmente ad esplodere la spesa sociale. Quindi tutta quella parte di PIL che viene spesa per la società, quello che si chiama il welfare state ormai. E quindi questi erano soldi che in un qualche modo indirettamente rientravano nelle tasche delle persone. E letteralmente bisogna pensare che lo Stato, e quindi in un qualche modo noi siamo la causa di noi stessi, perché questo tirar su la parte più povera, la parte più bassa, più povera della popolazione, non ha fatto altro che creare la possibilità e farli entrare nel mercato di massa, perché se no sarebbero stati probabilmente al di sotto e non avrebbero potuto permettersi certi tipi di cose. E quindi lo Stato sì, ci ha aiutato in quel senso, ma anche in senso positivo, non sto dicendo che è una cosa negativa il welfare state, assolutamente, ma è proprio connaturato quasi un po' all'uomo che come c'ha un po' più soldi, automaticamente dopo si spendono nelle cose. E abbiamo anche ovviamente classici pregiudizi, no? Tipo, non so, il classico che mi viene in mente, gli americani sono consumano un'esagerazione più di noi, eccetera, eccetera, noi europei già siamo un po' più moderati. E anche fra gli europei magari ci sono delle distinzioni, come non so, uno potrebbe pensare la Svezia, saranno sicuramente molto meno spendaccioni perché sono tutti bravi, educati, eccetera, e magari quelli spendano meno che degli europei o degli americani. Ma se anche lì, se guardi negli ultimi 20 anni rispetto agli anni 70, a Stoccolma hanno comprato 4 volte più elettrodomestici e 3 volte più vestiti. Quindi, ci sarebbe da dirgli al boss dell'IKEA lì, che probabilmente il peak staff ancora non si è raggiunto, il che non promette nemmeno bene, ma allo stesso tempo si vede come il consumo non è solo il lusso. Cioè, sì, c'è la componente del lusso all'interno del consumismo, ma non è fatto solo da questo. quindi nemmeno pensare solo all'ineguaglianza e al fatto dei consumi dei grandi ricchi. Sì, c'è il problema lì, assolutamente, c'è un problema enorme secondo me, ma non sarebbe la chiave di volta per risolvere tutto il problema. Quindi, non lo so, tutto questo percorso, che poi è un libro di Trentman, che è l'impero delle cose, The Empire of Things, credo, e mi ha fatto riflettere. Cioè, sicuramente se vogliamo affrontare l'argomento in maniera più completa, va visto più inserito anche all'interno di quella che è la vita delle persone, e non cercare magari la formula che ci dà immediatamente il counter contro il consumismo, ecco. No, ci sono tanti fattori, è giusto quello che dici, Giallo, assolutamente. E quindi, niente, per quanto questa esposizione può aver dato l'impressione che siamo noi, che non so, che in qualche modo il consumismo è insito nell'essere umano, non c'è niente da farci, no, lungi da tutto ciò voler far passare questo messaggio. Quello è stato, cioè mi sono riapprocciato a un argomento che, fra virgolette, pensavo di aver già affrontato bene, invece ho trovato qualcosa di più, insomma, e ho voluto condividere queste cose. Però il marketing è qualcosa di estremamente devastante, cioè ci fanno letteralmente comprare una vagonata di roba in più, e loro guadagnano palate di soldi con tecniche secondo me estremamente subdole. E quindi volevo parlare proprio un attimo del neuromarketing, che fondamentalmente non è altro che il connubio di due campi diversi: le neuroscienze da una parte, quindi lo studio del cervello, e il marketing proprio. Quindi si utilizzano strumenti estremamente costosi come le risonanze magnetiche funzionali, l'elettroencefalogramma, il tracciamento degli occhi, il dilatatore della pupilla, e potrei andare avanti penso per 10 minuti. E servono per andare a vedere come reagiamo a determinati prodotti o determinate pubblicità. Ad esempio, c'è stato uno studio in un negozio di vini, e praticamente hanno guardato se la musica che veniva messa all'interno del negozio aveva un'influenza sul tipo di vino che compravi. E allora hanno visto che il vino francese, quando c'era la musica francese, batteva il vino tedesco 3-1 come vendite, mentre nel momento in cui suonavano dentro, comunque mettevano la musica tedesca dentro il negozio di vini, il vino tedesco vendeva di più di quello francese. La cosa più bella è che nel momento in cui fermavano le persone dopo aver comprato le bottiglie, gli chiedevano: ma secondo voi la musica che c'era nel locale vi ha minimamente influenzato nella scelta del vino? Il 90% rotte delle persone ti diceva assolutissimamente no. Quindi effetto cherry. Sono proprio delle cose così inconsce, subdole, che non ce ne accorgiamo nemmeno. E a volte parlavi te prima della Coca-Cola, no, Umbe? Sì, nemmeno sì. Nemmeno loro lo sapevano bene che cosa avevano fatto. E c'è una storia bellissima, che non so se la conoscete, sulla New Coke. Uh-huh. A un certo punto, nel 1985, quindi negli anni 80, la Coca-Cola stava perdendo un sacco di mercato contro la Pepsi. E questo era un po' perché probabilmente la Pepsi sarà anche più buona, non lo so. Fatto sta che la Pepsi aveva lanciato una campagna pubblicitaria molto forte dicendo che aveva fatto un blind tasting, quindi un assaggio alla cieca, e più del 50% delle persone diceva che era più buona la Pepsi rispetto alla Coca-Cola. E quindi la Coca-Cola è andata in paranoia sul sapore della Coca-Cola, cioè dovevano migliorare il sapore della Coca-Cola in tutte le maniere. Quindi esce, dopo un test su 200.000 persone, quindi insomma neanche poi, gli hanno fatto sentire questa nuova formula della Coca-Cola a 200.000 persone, tutti hanno detto la nuova Coca è più buona della Coca, e più che altro è più buona della Pepsi, e quindi la Coca-Cola è partita, cioè, in tromba con questa nuova campagna di marketing con la nuova Coca-Cola. Allora, è il degenero è successo. La compagnia veniva chiamata qualcosa come 8.000 volte al giorno da gente che era arrabbiata perché rivolavano la Coca-Cola normale. A un certo punto le rimanenze di magazzino della Coca-Cola invece che della New Coke stavano venendo praticamente rubate da tutte le parti, perché la gente stava scalerando e volevano la Coca-Cola. E non ci hanno capito una mazza. A un certo punto hanno cominciato a ricercare di fare lo studio della Pepsi, e hanno rifatto lo stesso studio di blind tasting con la Coca-Cola e la Pepsi, e hanno riottenuto gli stessi risultati. Niente di nuovo, più del 50% delle persone preferisce la Pepsi sulla Coca-Cola. Nel momento in cui però te gli dici subito prima che stanno per bere la bevanda qual è la Coca-Cola e qual è la Pepsi, allora magicamente il più del 75% delle persone voleva la Coca-Cola. E questo è perché, come dicevi te prima, Umbe, cioè nella Coca-Cola c'è proprio quel qualcosa in più. Cioè, quel qualcosa in più l'hanno costruito e non se ne sono magari neanche accorti con quelle pubblicità del cazzo, scusate, ma... cioè, have a Coke and have a smile, no? Oppure I would like to buy the world a Coke, tipo vorrei comprare una Coca-Cola al mondo, o prendi una Coca-Cola e fai un sorriso. Cioè, tutte queste cose che legano l'oggetto, la Coca-Cola, ha dei sentimenti, ha delle emozioni, ha la felicità fondamentalmente. E in ultima analisi al godimento. Esatto. L'oggetto fondamentale, diceva anche Fischer o Zizek, non me lo ricordo più, ho confusione. Insomma, l'oggetto fondamentale di tutto il marketing è il godimento, cioè quello che ti stanno vendendo è quello, sempre. Anche quando ti vendono un coso per pulire il pavimento. Esatto, il godimento. Il Ferrero Rocher. Quindi i godimenti sono strani. Grazie. Se pensiamo in termini di godimento, e poi vi dico che Google, avete presente il colorino, no? Il bluino dei link di Google? Sì. Ok, praticamente a un certo punto Google si è messo in testa che voleva capire se una lieve modificazione nel colore del blu del link portava o meno a più click. Quindi hanno preso 40, invece che 50 sfumature di grigio, noi facciamo 40 sfumature di blu. E praticamente una di queste sfumature effettivamente portava la gente a cliccare di più. Quindi forse è un godimento inconscio di cliccare di più su quella sfumatura di blu piuttosto che un'altra. I godimenti sono strani, ma fondamentalmente con questa mossa Google fa 200 milioni in più all'anno, avendo cambiato la sfumatura di un colore. Amazon ha velocizzato di un decimo di secondo il sito, e questo decimo di secondo non è minimamente percettibile a livello conscio, ma la user experience, quindi l'esperienza che c'ha l'utente sul sito, è migliore nel complesso, perché il sito è più responsivo di qua e di là. Questo ha portato 1.7 miliardi in più a Amazon. Quindi, sì, c'è una componente, no, sicuramente di godimento, ma anche di valore, cioè le cose che si usano, i mezzi che ci sono, parlavamo prima dei social, appunto, non è che magari sono sbagliati in sé, però sì, esatto. Se c'è questo, non so, godimento un po' forse malato, non so, oppure se sfruttano troppo questa falla, o questo, non so nemmeno come chiamarla, questa caratteristica troppo umana, chiaramente, secondo me, giocano sporco. Troppo. A me è fatto venire il cuore per portarmi male proprio. No, non è vero. O è la scusa per tirar fuori l'ennesima bevanda di questa trasmissione. Quanti sponsor ci abbiamo stasera, ragazzi? Occhio quando scegli la birra o qualsiasi cosa bevi, che magari chissà cosa ti ha convinto di quella roba. Sicuramente non il sapore e la qualità di quello che c'è dentro, ma deve essere il colore della bottiglia o chissà cosa. Rocca Ventosa. Grazie a Rocca Ventosa per lo sponsor. Anche Rocca Ventosa. Sponsor by. Va bene. Ragazzi. Comunque sta roba sta bene. Sì, molto. Sono d'accordo. Vabbè, bisogna essere coscienti. Comunque parlavi prima del fatto che con la musica tedesca vendevano più vino tedesco che vino francese. Sì. Ma esiste il vino tedesco? Perché io c'ho questo dubbio. Ormai gli enologi hanno fatto il giro del mondo, come si suol dire, quindi fanno il vino davvero da tutte le parti. Ovunque. Va bene, sì, dai. Quindi, ragazzi, chiudiamo con un bel pezzo. Abbiamo fatto non so quanto oggi, ma sicuramente troppo. È sforato. Quindi, taglio tutto. Taglia. Quindi godiamoci Frankie. Ciao. Dai. Ciao. Alla prossima. Ciao. che mini, inguaiate dai modi inumani, di mode immediate a misura di ominidi, che invadono armadi a miriadi, coi nomi di eserciti in strass, tappezzano culi assai più larghi d'un bus, con pelle a buccia d'ananas, la silhouette d'una clava, con coscia alla zuava, e bene varie cose alla schiava, brava, moderna e materna, che ambisce a rimanere eterna, la donna odierna, non potendo più ringiovanire, ritornando appetibile, obbliga la figlia a somigliarle il più possibile, spera che le scambi per gemelle, lei che s'accontenta anche solo per sorelle, ma sembrano uno spot con le foto prima e dopo la cura, e sono entrambe condannate ad un durante di paura. Non vogliono niente di meglio, fanno un acquisto per ogni consiglio, pigliano tutto e non battono ciglio, più si somigliano meno si sbagliano. Non vogliono niente di meglio, fanno un acquisto per ogni consiglio, pigliano tutto e non battono ciglio, più si somigliano meno si sbagliano. Lui servono più cure d'un panda, il cui habitat è un mondo come uomo comanda. Quando lui si elettrostimola, si autodetermina in gran libertà, capitale del suo stato di necessità, versato interamente nel consumo più spinto, col sorriso dipinto del perdente convinto d'aver vinto gli sconti raccogliendo dei punti. Se facesse due conti venderebbe i congiunti, sa bevere i canali che lui irrigano, coltivando il suo campo magnetico, dissodando il video quando pigro zappa dal solco d'una tetta quello d'una chiappa, facendo tappa su una gamba con la zeppa. Peccato che nella sua divicia abbia l'audite, che registra il gradimento per le televendite, che legittima le opere più sordide, concimandoci salotti a suon di De Filippi, che non vogliono niente di meglio, fanno un acquisto per ogni consiglio, pigliano tutto e non battono ciglio, più si somigliano meno si sbagliano. Non vogliono niente di meglio, fanno un acquisto per ogni consiglio, pigliano tutto e non battono ciglio, più si somigliano meno si sbagliano. Lei che si preoccupa della ritenzione idrica ed acquista l'acqua liposodica, con sorgente a centinaia di chilometri da dove abita, perché pensa alla sua linea piuttosto che ai polmoni di chi vive lungo tutto il tragitto, che o trattiene il fiato e quindi se ne sta zitto, o si fa l'aerosol col gas del tir e ad ogni respiro fa un bel tiro di marmitta retrofit. Compra qualunque cosa le propongano, basta che contenga almeno un ingrediente esotico, sotto forma di un aroma chimico, di un nome che richiami il tropico, di un viaggio caraibico, sorteggiato tra chi supererà la prova d'acquisto, tra chi compilerà il tagliando giusto, scambiando i propri dati con un paio di infradi torrende, restando a casa solo in compagnia delle indie. Non vogliono niente di meglio, fanno un acquisto per ogni consiglio, pigliano tutto e non battono ciglio, più si somigliano meno si sbagliano. Non vogliono niente di meglio, fanno un acquisto per ogni consiglio, pigliano tutto e non battono ciglio, più si somigliano meno si sbagliano. Non vogliono niente di meglio, fanno un acquisto per ogni consiglio, pigliano tutto e non battono ciglio, più si somigliano meno si sbagliano. Non vogliono niente di meglio, fanno un acquisto per ogni consiglio, pigliano tutto e non battono ciglio, più si somigliano meno si sbagliano.